un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stofanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, eh beh, troppe galline rispondono. E se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Eccoci, ti sento in forma, ti sento in forma, caro Parenzo. Riprende la Zanzara, puntuale ogni giorno, 18:30, 800 24 00 24. Ha detto la sua sugli incidenti di Roma e i provvedimenti che il governo prenderà nei prossimi giorni, annunciati da Maroni. Anche Mimmo Scilipoti. Sì. Innanzitutto Parra, siccome ce l'ha con le banche, no? L'usura bancaria, sei fissato con queste cose qui, per carità, nobilissime, non dico di no, è fissato con queste cose qui. Allora immagina, pensa, sogna che tutta la manifestazione di sabato a Roma fosse stata indetta contro le banche, contro l'usura bancaria, cosa che evidentemente non è così, ma nella sua testa è così, cioè nella sua testa c'erano 200.000 persone contro l'usura bancaria. E dunque gli incidenti non sono spontanei. Cioè non sono incidenti perché c'è gente che vuole menare, ma sono gli infiltrati, evidentemente, secondo Scilipoti, pagati dalle banche. No. Sì, ti giuro, senti. No. Senti, ti prego, senti. Credo che quelle persone invece che hanno e si sono comportati in modo scorretto erano infiltrati, e una parte di loro sicuramente forse era pagato da qualcuno per far sì che gli argomenti seri diventassero non seri. Secondo me il gatto non va dove il pesce non c'è. E poi col cuore lui era alla manifestazione. Secondo me se ci fosse andato l'avrebbero massacrato, cioè questa è la mia impressione. Ah, sicuro, questo è sicuro. Cioè l'avrebbero appeso, posto che Scilipoti è ripeto, è 100.000 volte meglio di tutti quelli che erano alla manifestazione, o comunque dei più violenti. 100.000 ecco, volte meglio, più, non c'è diciamo dubbio. Dei più violenti, non di tutti. No, ma secondo me anche, anche degli altri. Ma comunque, lasciamo perdere. Perché devi non voglio dare giudizi. Non voglio dare giudizi. Secondo me l'avrebbero impiccato. Sai che si è impiccato con questo la corda? No, proprio anche scuoiato con la pelle. Avrebbero usato la sua pelle per fare i manifesti no TAV. E noi ci saremmo trovati qui. Poi, naturalmente, per carità, sarebbe stato. Noi l'avremmo difeso, perché noi siamo liberali veri. A quel punto avremmo usato i nostri corpi. Per difendere. I nostri corpi, certo. I corpi della politica radicale. Per difendere, però la realtà è che poi non ci sarebbe stato nulla da difendere. Cioè, se sono scogliato. Comunque lui dice che col cuore era la manifestazione. Beh, te credo. Lei sabato era alla manifestazione? Sabato non c'era la manifestazione, ma ero con il cuore alla manifestazione, perché i ragazzi che hanno manifestato. Con il cuore e anche con il fegato, con la coratella, insomma, con degli organi importanti. Scusi, se lei vuole scherzare, possiamo anche con scherzare. Il cuore, se vuole parlare di argomenti seri, parliamo di serissimamente, argomenti seri. Serissimamente, serissimamente sto dicendo che quel giorno, cioè sabato, è stato un giorno importantissimo e c'erano tanti ragazzi che manifestavano contro le banche e contro l'usura bancaria, che è stata il primo passo principale per la distruzione dell'economia in questo paese e nel mondo. E perciò ero accanto a loro, l'ho detto. Ma allora è vero, non era per l'usura bancaria la manifestazione. Non sa neanche che cos'è l'anarchismo. Caro Mimmo, non era per questo. Renzo Bossi, o si sta con mio padre oppure fuori dalle balle. Però senti. Se qualcuno non è più d'accordo con il progetto della Lega e con il segretario federale Umberto Bossi, ci sono mille altri partiti e mille altri movimenti da poter costituire. E se i piccioni spariscono. Poi oggi Bossi è tornato a dire che per la Banca d'Italia ci vuole uno di Milano, ma più tardi solito collegamento della Zanzara puntuale, quotidiano. Con la Villa Reale di Monza. Ah, l'ha detto che ci vuole uno di Milano. Sì, l'ha detto di nuovo, certo, l'ha detto di nuovo. Ma chi scrive i testi a Bossi, scusa? Non lo so. E viene un dubbio ora. C'è un Berlusconi di oggi, che facciamo? Te lo faccio ascoltare Berlusconi o no? Ma non forse so. Anche alle 7.15 possiamo ascoltarlo. Sì, no? Direi alle 7.15, sì. Signor Sallusti, come stai, Sallusti? No, è un Maroni di oggi, va, sui provvedimenti di oggi, va. Maroni sui provvedimenti di oggi, lanciatemelo, vai, fatemelo sentire. L'estensione dell'arresto in flagranza differita anche alle pubbliche manifestazioni, analogamente a quanto previsto per le manifestazioni sportive, ed è una norma che funziona e funziona bene. Un provvedimento di polizia preventivo per impedire a chi ha precedenti specifici di partecipare alle manifestazioni di piazza sul modello del DASPO o dell'ASBO, l'Anti-Social Behavior Order, introdotto nella legislazione inglese dal governo di Tony Blair. Insomma, leggi più dure basteranno, serviranno? Bah, chissà. Tosi, ieri da noi ci vogliono le cariche a cavallo. Stupendo, cariche a cavallo, come piace, in Gran Bretagna. Ti piace? Mi piace moltissimo, sì. Se ti piace così, no, invece a me piace. A te piace, le cariche a cavallo? Moltissimo, sì. Anche i cararmati, perché no? No, i cararmati no, che c'è. Usiamo anche i cararmati, no? Tanto? Comunque, sì, in alcuni casi, perché sì, no? Sì, anche i cararmati, come piace a Tiananmen, no? Certo. Ma no, facciamo, che c'entra Tiananmen? Sì, sì, i cararmati, proponilo. Quando uno va oltre, quando uno passa il segno, deve essere represso prima e dopo. Prima, nel senso che le cariche a cavallo che fanno in Inghilterra e in altri paesi sono sicuramente un sistema molto efficace come deterrente, perché quando uno si comporta come sono comportati quelli lì a Roma e gli arriva uno a cavallo che di fatto lo sovrasta, con gente che si comporta in un certo modo devi usare lo stesso sistema che usano loro. E infine c'è già un ospite in attesa, e infine Di Pietro, che è tornato a ribadire, anche se poi sul blog in realtà minimizza, cioè non voglio lo stato di polizia eccetera, però ribadisce: fermi preventivi, aggravanti speciali. Oltre alle risorse finanziarie ci vogliono nuove risorse organizzative e soprattutto normative, come il fermo di polizia preventivo in casi di questo genere, come aggravanti speciali per reati comuni commessi in occasione di manifestazioni, come infine figure specifici di reati. Sai che non va la vita. Eccoci, ma c'è gente che protesta all'interno dell'Italia dei Valori e non solo. Anche nel centrodestra ci sono dei distinguo. L'avvocato Pecorella, per esempio, che già aveva espresso critiche nei confronti di Berlusconi, dice: che sciocchezza, non servono a nulla leggi speciali o leggi ulteriori, basta applicare quelle di adesso, e soprattutto bisogna dare spazio all'intelligence. Bravo Pecorella. Insomma, allo spionaggio, a operazioni di prevenzione di questo tipo. Bravo. Il senatore Pancio Pardi è con noi, buonasera. Buonasera. Senatore, allora, lei è d'accordo con Di Pietro, sì o no? Me lo dica in maniera secca, chiara, comprensibile. Io lo dico in maniera secca, chiara e comprensibile. N-O. N-O. L'espressione, le due espressioni usate, leggi speciali e legge reale bis, non sono... Sono adatte a fotografare la situazione, e non sono d'accordo con il loro uso, e l'ho scritto, come lei sa, sì, su un blog di Micromega. Sì. In realtà posso essere un pochino consolato dal fatto che questa è stata un'espressione, penso, per creare un po' di allarme mediatico, ma in realtà l'Italia dei Valori ha presentato oggi al Senato un disegno di legge in cui ci si limita a proporre di allargare le misure prese nei confronti della violenza negli stadi agli autori di violenza nelle manifestazioni. Quindi non e lei su questo è d'accordo? Non c'è niente fermo di, cioè la cosa che ho sentito dire per voce poco fa da Di Pietro nel vostro audio, non c'è il fermo di polizia e non ci sono arresti preventivi. Ma adesso vedremo. E non c'è leggi speciali, c'è il divieto di manifestare a viso coperto e pene aggravate per chi esercita violenza su persone e cose. Però, no, diciamo, beh, c'è anche l'arresto differito, c'è l'arresto differito. Io sono convinto che l'espressione è stata poco adatta, cioè un'espressione che era meglio non usare. Ecco, De Magistris, legge speciale evoca subito una sorta di cosa che sta ai confini della legittimità costituzionale. Le leggi speciali è meglio lasciare da parte, anche perché leggi speciali sono, per esempio, le leggi ad personam di Berlusconi. Questo non c'entra. Sono proprio leggi speciali, quindi le leggi speciali lasciamole da parte. La legge reale bis è una cosa poco conveniente poco non conviene evocarla, perché conteneva l'autorizzazione ad un ampliamento nell'uso delle armi che ha fatto centinaia di vittime nelle strade e nelle piazze italiane, tanto che c'è una bibliografia amplissima sulle degenerazioni prodotte dalla legge reale, che gli esperti conoscono benissimo. Cioè negli anni 70 lei dice che i poliziotti hanno ammazzato un sacco di gente? Abbastanza, qualche centinaio di persone sono qualche centinaia di persone addirittura. E poi c'è il fermo di polizia, che è una cosa che non sta né c'erano in piedi, perché il fermo per 48 ore rinnovabili faceva sì, secondo la legge reale, che la convalida del giudice potesse arrivare solo dopo 96 ore, e quello significava che per 96 ore l'arrestato, chiunque fosse, era in balia, degli uffici di polizia, senza nemmeno l'aiuto dell'avvocato. Quindi meglio lasciar stare queste cose nel passato. Lei dice negli anni 70 la polizia con queste leggi uccise centinaia di persone innocenti, questo vuole dire? Sì, ora il numero esatto non lo so. Vabbè, comunque centinaia di persone. Ci sono, mi sembra, 625 colpiti tra morti e feriti. Ora però ho capito, il DASPO, cioè quello che si fa negli stati, invece lei è d'accordo? Sì, quello mi sembra una cosa ragionevole. Non so se si riesce poi ad applicare, perché una cosa è l'entrata allo stadio, una cosa è la manifestazione. Sì, però per esempio, non so se lei sarà sicuramente documentato su quello. Scusi un attimo, perché c'è il traffico. Le garanzie patrimoniali, cioè prima della manifestazione qualcuno deve dare una fideiussione, una garanzia per gli incidenti? No, questo mi sembra. Perché? Mi sembra, ma hanno fatto non so quanti milioni di euro di danni adesso a Roma. Chi paga? Chi paga? Pardi, chi paga per i danni di Roma? No, chi paga? Mica le posso rispondere io chi paga. No, chi paga? Qualcuno, appunto, perché non lo sa, qualcuno dovrà pagare, no, per questi danni di Roma. Non è che si può lasciare tutto impunito sempre. Eccoci qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Poi naturalmente valuteremo tutte queste norme nel dettaglio. Però c'è una contraddizione in quello che ha detto lei, Pardi, non nelle sue parole. Lei dice niente fermo di polizia, niente arresti preventivi nel disegno di legge dell'Italia dei Valori. Però Di Pietro ha detto esattamente questo, prima l'abbiamo ascoltato anche stamattina. Però l'ha detto, però evidentemente ci deve essere stato un ripensamento, perché il disegno di legge che abbiamo presentato oggi al Senato, per quello dico, lui avrà oppure lui non è d'accordo con il vostro disegno di legge. Queste parole, diciamo, per determinare una drammatizzazione mediatica, ma in realtà poi dal punto di vista sostanziale il disegno di legge è come le dicevo io. Senta, Pardi, tra poco sarà depositato, quindi lo può vedere certo. Anche di persona. Scusi un attimo, Pardi, lei ha detto no assolutamente alla fideiussione, perché evidentemente limita la libertà di... Ho capito, ma chi paga? Chi paga le banche distrutte, le vetrine, i negozi? Certo, chi paga le persone che saranno giudicate e considerate colpevoli in parte? E se non possono pagare? In parte dovranno, se non possono pagare, questo mi pone una domanda che... No, ho capito, quella fideiussione a questo serve, cioè uno deposita... lei dice limita la libertà di che cosa? Certo, ma che vuol dire? Il deposito prima, uno va alle manifestazioni e fa prima una fideiussione prima della manifestazione. Certo, se succede qualcosa la responsabilità è tua, qual è il problema? Dov'è la difficoltà? Non c'entra nulla quello? Come mai? Ho detto, c'è una differenza enorme tra la responsabilità personale e la responsabilità... Ma no, non la persona, l'organizzazione. C'è sempre un responsabile della manifestazione. Cosa ci deve essere? Ogni organizzazione che partecipa alla manifestazione deve firmare una fideiussione per i danni. Una fideiussione per eventuali danni, poi in caso i soldi ritornano, non è che vengono sequestrati. Senta, facciamo così, mettiamoci così, d'accordo, allora... Se il governo, che ha sprecato tutti i soldi alla Maddalena, caricando la Maddalena di una quantità infinita di opere inutili e lasciate a metà, avesse fatto una fideiussione per coprire tutti i danni del disastro creato lì, per poi migrare per pura pubblicità. Ho capito, però è un altro discorso questo, Pardi, è un altro discorso questo qua. Comunque lei è contrario, per carità. In termini di previsioni, di previsione preventiva di danni futuri, ragazzi, no, Pardi, ma è legittimo essere contrari, però in nome della libertà di espressione che non può essere, o di manifestare, che non può essere limitata dal denaro, in nome di questo, non perché il governo ha sprecato i soldi alla Maddalena, sono due discorsi diversi. Io accetto anche la sua formulazione. Non si può, mi va bene la sua formula. Non si può limitare la libertà di manifestare con il versamento di denaro, lei dice. Senta, in alcuni casi, sono curioso. L'articolo 21 non può essere monetizzato. Se poi invece in nome, apparentemente, dell'articolo 21, uno sfascia le banche e rovina le piazze, allora questo è un altro discorso. Cioè, la responsabilità può essere. Ne risponde in sede di procedimento. Secondo me ne può rispondere anche chi organizza una manifestazione. Comunque, l'altra domanda è questa: ma in alcuni casi, secondo lei, la polizia fa più danni dei manifestanti? Ma dipende. Cioè può succedere? No, in questo caso, per esempio, la polizia ha fatto un danno preciso, che è stato quello di non individuare i black bloc prima. Vabbè, se lei cioè, va la colpa leggersi, è della polizia, lei dice. Se lei va a leggersi, l'ha già fatto sicuramente, le testimonianze oculari di persone che erano all'inizio del corteo, prima dell'incendio delle auto in via Cavour, avrà trovato alcune testimonianze illuminanti di ragazze, ce n'è una che è una testimonianza stupenda, una ragazza scrive e dice che ha guardato dentro la fasciatura della faccia di una persona e gli ha guardato gli occhi e per un secondo i loro occhi si sono incrociati e lei esattamente in quel momento ha capito che quello lì insieme ad altri stava per fare qualche cosa. Allora? Era già una persona truccata, già coperta. Mi hanno detto altri che alla stazione arrivavano con i pacchi, diciamo tutti abbastanza riconosciuti. Ma questo che cosa vuol dire? Che con i borselli e i costi attaccati alle spalle, con dietro attaccato il casco. Diciamo, una polizia che sappia trattare con efficacia queste cose forse poteva intervenire prima. C'è un'altra cosa che le dico, che forse è utile. Cioè, non ho capito, secondo lei gli incidenti sono. Guardi, sì, scusi un attimo, importante. Sono stati voluti? Questo vuole dire? Cioè, a qualcuno convenivano questi incidenti? Come? A qualcuno conveniva che accadessero questi incidenti? Lei dice? Il governo un qualche utile marginale ne trae da questa cosa. Senta, la domanda. Le manifestazioni, io non arrivo a dire che l'hanno organizzate loro. No, organizzate no, però lei dice che comunque ottiene un vantaggio. Qualche vantaggio c'è. Con la polizia, però. Voglio dire una cosa, visto che si parlava di polizia, me l'ha detta un poliziotto, perché io cosa parlo l'ha detto? Con i poliziotti quando li incontro in piazza davanti a Montecitorio e al Senato. Sì. Uno mi ha detto la cosa più esplicita di tutte. Lo sa qual è l'età media dei poliziotti mandati a fronteggiare le manifestazioni? 48 anni. Quelli erano 18 anni, ci saltavano come grilli. Beh, non 18, questo erano arrestato 24. 20, Erpelliccia che adesso dice che voleva spegnere l'incendio. Me l'ha detto un esponente ci piglia anche per il culo. Delle forze di polizia, mi ha detto, tra di noi il turnover è stato interrotto, non c'è più turnover. Senta, un'altra cosa, Bardi, devo concludere. Siamo tutti padri di famiglia con la pancia. Ho capito, devo concludere. Con la pancia, come con la pancia? No, i poliziotti, i panzoni, i famosi panzoni di Brunetta. Senta, ma davvero in alcuni casi, secondo lei, i poliziotti possono essere in alcune manifestazioni più pericolosi dei manifestanti? Beh, a Genova di sicuro. No, a ma Genova, in generale. Alla caserma, no, in generale no, per carità. Alla caserma di Bolzaneto, dove secondo un commissario di polizia è stata fatta macelleria messicana, lì in alcuni casi i poliziotti sono stati peggio perfino dei black bloc. Addirittura. In alcuni casi possono essere peggiori dei manifestanti. Alla caserma di Bolzaneto hanno sospeso per un giorno e una notte le garanzie. Cioè lei si fida più della polizia o di chi manifesta? No, ora mettiamola in questi termini. Io mi fido delle forze di polizia quando sanno essere equilibrate. Devo dare la linea al giornale radio, grazie. Eccoci qui, 19:18, 800 24, 00 24, la Zanzara, David Parenzo, eccoci. Come va? Bene, pronti a lottare, perché mi pare che qui stiamo prendendo una brutta china. Comunque, qual è la brutta china? Scusa, la brutta china è quella che succede a Napoli, dove sono stati accoltellati quattro tifosi tedeschi. Quattro. Sì, no, vabbè, lasciamo perdere. Violenza negli stadi. Però mi pare tutto molto. Molto chiaro. Voglio dirtela subito, così ti arrabbi. Voglio dirtela subito e destare lo scandalo radicale. Dirtelo subito. Cioè, un governo che invoca sicurezza e legalità. Sì. Che ha tra i suoi autorevoli membri un ministro indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Beh, cari amici della Zanzara, cari amici della Zanzara, cari amici della Zanzara, questo sentiamo la stronzata. Non ha alcuna credibilità per invocare legalità. Benissimo, è la stronzata delle 19:19 di David Parenzo. Andiamo a sentire come ci presenta la giornata il TG3. Stronzata delle 19:19. Vabbè, non fa niente, ogni tanto si possono dire stronzate. Dunque, secondo te questo governo, di fronte agli incidenti gravissimi di sabato, non può prendere alcun provvedimento perché al suo interno ha un ministro indagato, rinviato a giudizio, non mi ricordo, indagato per mafia. Per mafia o per quello che è. Per quale reato? Ma che c'entra? Concorso esterno, ma che c'entra? Ma qualsiasi reato, non è questo il punto. Secondo te il governo non è legittimato perché ha indagati, eccetera, eccetera. Va bene, d'accordo. Beh, praticamente l'hai detto. Ha una credibilità. Appunto, non è legittimato. Dunque. No, è un governo legittimato. Cioè, non l'ho capito. Un governo in carica, siccome ha una credibilità ridotta a lumicino, siccome è traballante, non può prendere provvedimenti di questo tipo. Deve prenderli, dopodiché bisogna discutere nel merito. Dopodiché mi interrogo, perché siccome nessuno voleva le sue dimissioni. Vabbè, hai detto una stronzata, dai, hai detto una stronzata. Nessuno voleva le sue dimissioni da parlamentare. La stronzata delle 19:20, da dai. Sì, siccome c'è un ministro, siccome c'è Romano, per mafia, siccome c'è Romano, non si possono prendere provvedimenti sui Black Bloc. Sull'autorevolezza della invocazione alla se legalità. Ci pensi bene, sai che alle 19:20, anzi alle 19:19 hai detto una stronzata. Lo ripeto ancora se TG3 vuoi. TG3 titoli. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Decreto sviluppo, Berlusconi, non ci sono i soldi, per Banca Italia è in corsa anche Binismaghi, Bagnasco strumentalizzato, le imprese tempo scaduto. Standard & Poor's taglia il rating di 24 banche italiane, Fitch declassa la Fiat, Merkel pronti a tutto contro il contagio. Bossi, da mesi i cattolici chiedono al Premier di farsi da parte, passo indietro, chiedetelo a lui, Bonanni non un nuovo partito ma cambiamento. Maroni pronti a DASP arresti preventivi, garanzie patrimoniali per manifestare, si preannuncia un autunno caldo, Di Pietro ospite al TG3. Preso il giovane che durante gli scontri ha lanciato un estintore, subito si pente, non sono un Black Bloc, la polizia è in piazza contro i tagli. All'udienza preliminare sul caso Mediatrade, il GUP proscioglie Berlusconi e rinvia a giudizio il figlio per Silvio con Falonieri e altri 10. Libero il militare israeliano Shalit, tornano a casa centinaia di detenuti palestinesi, i primi del gruppo di 1027 scambiati con l'ostaggio di Hamas. Tu, tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio, ci sono volpi di quelle stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E siamo qui ancora qualche audio, qualche voce dalla politica, dal teatrino della politica, prima di tornare, prima di andare agli ascoltatori per la battaglia, tra virgolette, di questa sera. Beh, io farei sentire ormai quello che è diventato un pezzo di culto, diciamo, no? Signor Razzi! Il signor Razzi e i suoi strafalcioni alla Zanzara. Stiamo parlando di Antonio Razzi, Italia dei Valori, ex Italia dei Valori, oggi PT, Popolo e Territorio, ex responsabili, eletto all'estero in Svizzera, Commissione italiano, cultura. Commissione Cultura, bravo, hai fatto bene a ricordarlo. Non conosce molto bene l'italiano. Sto facendo un libro, il libro è finito, parla la mia storia da emigrato, ma parla degli ultimi avvenimenti, perché sono andato via dall'Italia dei Valori. Dovrebbe uscire, se ci riesco, prima di Natale, perché sto trovando un editore. Quello che del libro io non prendo niente, perché lo devolvo alla Chiesa, per una ricostruzione di una Chiesa che sta cadendo. Devolgo, libro, parla la mia storia, eccetera. Dare del bene al paese, dare del bene al paese. Senti. Ci sono quelli che aspirano a poltrone grandi poltrone. Io a me basta che ho la sedia per votare. Arrivando alla fine della legislatura e dare del bene al paese, perché altrimenti si spende circa 1,5 miliardi, deve sapere i cittadini, che dopo la pagano loro quel 1,5 miliardi. Non è che la paga Berlusconi. Eccetera, eccetera. Solo che manca il soggetto, il verbo, il complemento oggetto. Antonio Razzi, il suo ex, anzi no, il suo il suo attuale sodale, chiamiamolo così, il nostro amico Mimmo Scilipoti, e non sa che fa parte della commissione ambiente della Camera, non sa cos'è il Sistri incalzato dal signor Bonelli, credo ieri ad Agorà, se non sbaglio. Sentiamo. E lei sta sotto un governo che non fa il Sistri, lei sa che cos'è il Sistri? Poi me lo spiegherà lei. Ma è un parlamentare, dove dovrebbe essere? E il sistema di tracciabilità dei rifiuti. E lo spiegherà lei. Ma no, rivendica il diritto all'ignoranza, non sa che cos'è il Sistri, allora il Sistri non si fa, questo governo impedisce di fare il Sistri. Troppe galline rispondono. Va bene, 800 24 00 24, ci sarebbe davvero tanta roba da mandare in onda, anzi no, voglio farti sentire una cosa eccezionale, ridicola se vogliamo, perché ieri durante la trasmissione L'Infedele condotta da Gad Lerner c'era un servizio, anzi una... un inviato che ha fatto sentire delle voci dalla piazza via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. La nostra amica Paola Mordiglia, esattamente. Certo. Ha fatto sentire delle persone che non è che sfioravano, era quasi da ridere, da morire dalle risate. Ma è un film in animo retti, non parlavano, cioè non volevano parlare, interloquire, ma parlavano comunicati. Per comunicati. Sì, bellissimo. Ma come bellissimo? Una cosa ridicola, patetica, avevano 20 anni, 25 anni, parlavano per comunicati. Una cosa patetica. Poi a un certo punto, di fronte alla domanda "ma voi condannate la violenza?", senti la risposta. La componente violenta non è parte inevitabile del vostro movimento, anche se magari non vi piace. La componente violenta non è parte inevitabile. Noi non eravamo pronti a rispondere alle vostre domande, avevamo preparato dei comunicati discussi in assemblea, quindi se volete siamo disposti a rispondere con i nostri comunicati e non a rispondere alle vostre domande, perché io posso parlare come Mara, non posso parlare per tutta la campata. Sarebbe stato giusto ricevere le vostre domande. Cioè volevano ricevere le domande prima, capito? Questi sono i geni che partecipano alle manifestazioni pacifiche, i geni. Anche perché facevano con le mani. Questa si chiama Mara, questo genio si chiama Mara. La quale a un certo punto una loro assemblea. No, ma lascia perdere, non c'è niente da commentare. Dopo queste cose non c'è niente da commentare, capisci? Ma non c'è nulla da commentare. Ma non c'è nulla. Ma chi ha detto che fanno male? Ma non c'è nulla da commentare. Aspetta, non fanno male. Aspetta. Non condanniamo la insomma, questi qua la condannano la violenza di quelli che distruggono le vetrine, sì o no? Uno dovrebbe dire sì, certo. Un comunicato, dovrei parlare anch'io con comunicati. Sì, esatto, parla anche tu così. Dovrebbero dire sì, noi condanniamo questi. Invece non lo dicono, senti, condanniamo la violenza del sistema politico e finanziario. Io vado al manicomio davanti a queste cose, vado al manicomio. La non violenza è la nostra strategia. La non violenza è l'unico mezzo, è l'essenza. È l'alternativa al sistema violento in cui viviamo. Ci poniamo in una posizione di dialogo e non giudichiamo le altre forme d'espressione di piazza. La violenza che condanniamo è quella dell'attuale sistema politico, finanziario, economico e mediatico. Ma come parli, ragazza mia? Come parli? Sembra un mattinale della questura. Ma è roba da matti, è roba. Voi vi rendete conto? Uno poi dice che è prevenuto, ma vi rendete conto o no? Cari amici della Zanzara, chi abbiamo di fronte? Vi rendete conto o no a chi diamo retta? A chi Draghi ha dato retta? Vi rendete conto o no? Cioè Draghi ha tenuto il signor Draghi ha tenuto bordone a queste persone qua, a questi personaggi. Io vado al manicomio, mi viene il sangue al cervello. Non è così. Fammi sentire Roberto da Cuneo. Ma chi è Roberto da Cuneo? È un ascoltatore che vuole intervenire. Roberto. Ah, vabbè. Pronto? Dica. Sì, sì, questo è sconvolgente, sono d'accordo con lei, ma sono rimasto anche piuttosto sconvolto dalle parole di Pancio Vatte la Pesca. Ma, signor Pancio Pardi, signor Pancio Pardi Vatte la Pesca, un senatore della Repubblica si chiama Pancio Pardi, con il quale non sono d'accordo, ma insomma esprime delle idee normali, no, normalissime. Non è questione, sì, momento, ma non è questione di essere d'accordo o meno, questo signore pensa che le leggi speciali hanno fatto sì che la polizia in Italia uccidesse centinaia di persone. E infatti questa è una follia. Francamente una follia. È una follia, ma questo signore è un senatore, non è il salumiere o questo è un senatore, ma da dove è uscito? E che vuole che le dica? C'è qualcuno che rimpiange o torna con la mente a un certo passato, è nostalgico di... Insomma, ancora gli anni di piombo pesano da questo punto di vista. Caro signore da Cuneo, Roberto, aspetti un attimo che abbiamo le notizie dai mercati finanziari. Siamo qui, carichi come non mai, caro Parenzo. Ovvio. 19:35, la Zanzara, 800-24-00-24, eravamo con Roberto. Veramente allora, faccio 19:36. Vabbè, adesso non sia così. Chi è che ha detto che sono le 19:36? Io, sono tu. Stato io. Sei sempre pignolo, come al solito, eh. Il mio orologio fa le 36, comunque. Vabbè, è uguale, adesso non sottilizziamo. Non vorrei fare un dibattito su no, ecco, questo. No, ecco, questo è importante. Roberto. No, dicevo appunto, è disarmante il pensiero di questo Pancio Pardi e in un certo senso giustifica poi la ragazza, la Mara, che nelle, insomma, giovane, neuroni in formazione, può sparare delle idiozie come quelle che ha sparato. Però questo signore, un senatore che tira fuori centinaia di morti. Centinaia di morti. Fuori da una cella frigorifera ed è uscito fuori con queste stupidaggini. La cella frigorifera, insomma, hanno tirato fuori dalla cella frigorifera, mi sembra un tantinello esagerato, ecco, va bene, grazie. Però, signor Roberto, ma chi è che può? No, guardi, anche secondo me è una stupidaggine. Lui probabilmente si rifà ai morti nelle manifestazioni in Italia o comunque negli anni 70 in generale, credo, non lo so dove ha tirato fuori quel numero. Comunque ha detto una cosa ben precisa: la polizia ha provocato durante gli anni 70 centinaia e centinaia di morti, dunque è meglio non tornare a quegli anni. Questo ha detto il senatore Pancio Pardi, Italia dei Valori, in evidente dissenso con il suo capo. Claudio da Milano, grazie Roberto. Buonasera Cruciani. Dica. Mi sente? Sì, sì. Buonasera a lei, Parenzo. Bene. Senta, io telefonavo per una testimonianza. Che testimonianza? Nel senso che quando c'era il sindaco Rutelli a Roma, sì, a fare il sindaco, sì, io ero un che sta facendo? Che sta facendo? Sto citofonando a un cliente. Sta citofonando a un cliente. Che fa di mestiere? Sì. Che fa di mestiere? Che fa di mestiere, Claudio? Assicuratore, per quello che l'ho chiamata. L'assicuratore. L'assicuratore. Ma a quest'ora va a casa della gente? Scusi, ma a quest'ora va a casa della gente? Alle 7:30. Beh, assolutamente sì. È il nostro lavoro, Ma che deve vendere, scusi, a quest'ora? No, noi andiamo a fare gli incassi, vendiamo le polizze, andiamo a raccontare le storie, troviamo i nostri clienti. Fa l'assicuratore. Ma alle 19:30, ma la gente sarà a casa a mangiarsi una minestrina, una pasta al burro e si sente suonare. Anche dopo cena andiamo, non è scusa, una novità. Parenzo, ti dà fastidio la gente che lavora, non ho capito. No, ma se viene da me, quererare quando sono a casa dopo cena. Parenzo, si vede che Parenzo lavora poco. No, dico, io lavoro 7 giorni su 7, amore mio, 7 su 7. Buongiorno, buonasera. Ci faccia sentire questo dialogo tra lei, tra l'assicuratore e il suo cliente. Su. Questo è il paese normale, bellissimo. Allora, il signor Gianni, che va in giro a mettere le tapparelle, le tende, per tutta Italia, è un mio cliente. E adesso ho portato la... Voglio dirvi una cosa, c'è una notizia, scusi un attimo se la interrompo. Profumo. C'è una frase pronunciata da Bossi in questi minuti. Poi naturalmente potremmo essere più specifici avanti. In cui Bossi dice: Tosi è uno stronzo. No. Sì, sì, Tosi è uno stronzo, con il dito medio, accompagnando questo per risposta alle parole di Tosi sul voltastomaco di alcuni deputati leghisti, parole che ha pronunciato ieri da noi. Farei risentire le parole di Tosi. Bravissimo. A questo punto. Beh, questa è comunque altro microfono. Tosi è uno che ha portato nella Lega un sacco di fascisti, cosa che non potrà essere sopportata per molto. E in questo caso si rifà a Bossi a che cosa? Si rifà al fatto che Tosi ha una, come dire, un'origine. L'origine di Tosi è nella destra italiana, insomma. Tosi era C'è un assessore in giunta che veniva, diciamo, dall'estrema destra veronese. Esatto. La frase di Tosi sul voltastomaco, pronunciata ieri qui alla Zanzara. Io dico che più di qualche dirigente della Lega la pensa come me, e però proprio per ragioni di ruolo, ma non perché abbiano paura, perché hanno un ruolo tale che, come le dicevo prima, per una questione istituzionale non possono dirlo. Io posso dire che i nostri deputati certe votazioni che abbiamo dovuto fare a Roma gli fa volta a stomaco, come le hanno fatte, e loro mica possono dirlo, ma io glielo posso dire. Questo Tosi ieri alla Zanzara. Risposta oggi di Bossi: Tosi è uno stronzo, ha portato i fascisti nella Lega. Insomma, voglio dire, c'è armonia all'interno della Lega Nord, eh? Tutto bene, mi pare, no? Tutto bene. Allora, eravamo con Claudio da Milano. Claudio, il profumo in legale, che sta eh? Facendo? Mi viene da dire, quell'uomo secondo me è uscito di Cotenna, cioè, chi? Chi è uscito di Cotenna? Bossi. Vabbè, Bossi non è la prima volta che parla in questo modo, Casini. Beh, come... è uno stronzo, eccetera. Ma comunque fra poco ci colleghiamo con Bossi come al solito, però, per cui... al di là di questo, volevo testimoniare il fatto che quando abbiamo fatto questa manifestazione con la Lega a Roma, il signor ministro Rutelli ci aveva chiesto una fiducia. Sto parlando della manifestazione della Lega Nord a Roma, del, sì, penso sì. che sia del 2000. Ce le dice, non è una cosa nuova questa qua. No, non è una no, cosa no, nuova. Ce l'ha chiesta, voleva, abbiamo presentato una fiduciaria di 200 milioni, allora erano ancora in lire, e non si è scandalizzato nessuno, ci pareva una cosa ovvia. Perciò questi signori quando fanno la manifestazione fanno la cortesia di mettere qualche soldino per uno e vanno a garantire eventuali danni che vanno a fare questa gentaglia, è perché i cittadini poveracci è una cosa difficile da applicare oggettivamente. Adesso non so in che occasione, in che momento le hanno chiesto una fideiussione. Sì, per piccole manifestazioni che... è possibile, è evidente che se poi ci sono degli infiltrati in una manifestazione, ma insomma, è difficile fare, proprio per evitare questo, secondo me. Va bene, va bene. Cosa, volevo fare una domanda, Cruciani, se è possibile. Dica, veloce. Se mi può rispondere lei, in due secondi. Io vorrei che qualcuno mi chiarisse il fatto perché un italiano all'estero deve votare, ha il diritto di votare e modificare l'assetto politico in Italia. Bravo. Dove vivo io. Bravo. Cittadino italiano, ma per quale motivo? Bravissimo. Un italiano negli Stati Uniti deve decidere come devo vivere io qui in Italia. Bravo. Va bene, grazie Claudio. Grazie Claudio. Flavio da Forlì, buonasera. C'ha ragione. Buonasera a lei e a Parenzo. Io volevo dire, rispetto alle leggi, che secondo me non c'è nessun bisogno di fare leggi speciali, perché le leggi ci sono, è sufficiente che quando combinare delle pene esemplari, così mi sembra di aver capito che si può arrivare fino a 15 anni per i reati che sono successi sabato, e combinando queste pene esemplari sono convinto che a molte persone passerebbe la voglia di fare il cretino. Come seconda cosa, dovrebbero dotare secondo me le forze dell'ordine, che mi fanno pena nel senso buono del termine, perché l'ordine pubblico è la cosa più difficile che esista, e tipo in Germania, che gli dotavano negli anni passati, se non ricordo male era la Germania, di mezzi blindati dotati di idranti che spruzzavano acqua in chiostro indelebile. L'hanno fatto anche qui. No, che gli idranti, giustamente io dico, senza le sì, ma qui nelle manifestazioni si vede poco Stato, poca polizia, io lo dico anche ai poliziotti che ci stanno ascoltando, si vede poca polizia che agisce, bisogna agire duramente in questi casi. Ma sei diventato un questore duramente. Ma io non sei sono diventato questo, questa è la mia, questa è buonasera questore. No, tu questa è la mia impressione se faccio il paragone tra quello che accade in altre manifestazioni e quello che accade nelle manifestazioni in Italia, dove evidentemente c'è un timore da parte della polizia dopo quello che è successo negli anni scorsi. C'è un uso ragionato della forza, perché in democrazia c'è un uso nullo quasi della forza praticamente. Ma non mi sabato c'è stato un uso nullo della forza. Un uso nullo della forza. Ma comunque, cosa volevi dire? Io non ho capito. Cosa volevi? Si fa di sparare. Volevo che la prima vetrina infranta bisognava intervenire con più forza, con ma più decisione alla prima vetrina infranta. Avrebbero creato un disastro se fosse stato così. Vabbè, allora organizzassero le manifestazioni in maniera diversa, non facessero transitare le manifestazioni dove ci sono i negozi, le macchine, questo le banche. Questo può essere eccetera. Un altro ragionamento, certo. Se, no, ma è tutto un ragionamento, perché non capisco perché le manifestazioni devono portare alla distruzione di cose e alla minacciare la vita delle persone. In generale, le manifestazioni cosa? Chi l'ha detto? Che in generale le manifestazioni non mi sembra che portino alla distruzione. Ci sono stati alcuni eventi in Italia, e questo era uno ampiamente atteso, perché si sapeva, non è che quando manifesta il PD ad esempio, non è che uno dice manifesta il PDL o dice chissà, se no la manifestazione della Zanzara non è che arriva il black bloc alla Zanzara, se c'è la manifestazione dei Notav un po' di paura c'è indubbiamente, infatti su domenica ci sono già avvisaglie e paure. Non è che tutte le manifestazioni annuncia dove sarai così. Annuncia dove sarai domenica. Beh, domenica dove sarai. Cari amici, domenica sarò in Val di Susa, domenica sarò lì, cari amici notab, se volete, non lo dico per carità, non lo dico. No, farò un collegamento, credo, in diretta dalla Val di Susa. Va bene, Marco da Prato, 800 24 00 24. Marco, dica. Buonasera, grazie Cruciani, complimenti per la trasmissione. Molto semplicemente, mi viene da fare una riflessione su questi, sulla situazione dell'ordine pubblico e di queste proteste. Mi domando, e mi sono sempre domandato, 10 anni fa, in occasione del G8, abbiamo assistito a quel tragico evento in cui ha perso la vita quel ragazzo che corrisponde al nome di Giuliani, esatto. Allora, questo ragazzo, questo povero ragazzo, perché che per me non è un eroe, mi faccia finire. No, questo ragazzo era un incappucciato tale e quale come quelli che hanno distrutto Roma ieri l'altro e come quelli che l'hanno distrutta il 14 dicembre di un anno fa, come hanno bruciato e incendiato tante altre manifestazioni. In quel caso a cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito alla santificazione del martire. Bravo, questo bravo. È il progetto, questo è il concetto. Finché passa questo concetto noi non ne usciamo. Perché non si un può un attimo solo, il telefono del signor Pisacà, lei ha ragione, non si può entrare nella sala della Camera. Sì? Pisacane? Ero io? Stai zitto. Tutte le volte si caschi, è bellissimo. Stai zitto, per... no, tutte le volte. Adesso sì, ci sono cascate. Tutte, come le manifestazioni, tutte le volte. Oh, ma Profumo è indagato, come lo vedi? È indagato. È indagato, è semplicemente indagato, già lo stai crocifiggendo, no, è semplicemente siamo indagato. Sono entrati 245 milioni. Capito, ma di già euro. Come lo vedi Profumo indagato? Come hai visto come te le immagini 245 milioni di euro? Frode fiscale. Vabbè, vedremo. Il numero di Michele Pisacane, ex Udeur, ex UDC, poi passato ai responsabili PID. Uno di quelli che ha, tra virgolette, salvato il governo Berlusconi nell'ultima votazione. Benissimo. C'era Marco, richiamatemi Marco. Paolo D'Ascoli, 800 24 00 24, perché stasera va così. Paolo D'Ascoli, dica. Pronto? Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Senti, io volevo intervenire su due cose. No, prima di tutto la proposta di Di Pietro. Di Pietro, io credo, è un mio personalissimo giudizio, come altri, ha veramente il vizio di tirare la pietra e nascondere la mano. È lui che ha usato espressioni nei confronti di Berlusconi tipo stupratore della democrazia, eccetera. Comunque, a parte questo, io penso di avere i capelli abbastanza bianchi da ricordarmi che certe cose sono sempre accadute. E lei ha detto prima, ma la polizia non interviene. Anche non intervenire è un modo di indirizzare i fatti. Guardi, io mi ricordo nel 77, cioè, no, scusi, che cosa c'entra adesso, non lasciamo perdere il 77, eccetera, perché era la stessa cosa. Un nome come Walter Rossi ricorda a moltissime persone, per esempio un ragazzo che morì in degli scontri dove la polizia all'epoca non intervenne, e persone come Flavia Perina, per esempio, si ricordano benissimo che cosa accadde. Lo stesso Cossiga disse: io feci accadere quello che è accaduto in modo tale che potei così scatenare la repressione. È scritto questo dunque, su un libro. Dunque, scritto lo stesso, dunque secondo lei, se lo riprenda questo dunque, libro, secondo lei gli incidenti sono stati creati appositamente per poi fare la repressione. Questa no, è la sua idea. Quando non si guardi la sera prima, io ho visto la trasmissione di Formigli. Stavo commentando con mia moglie, dico, vedrai che domani succederà qualche cosa. Non ma questo lo dicevamo tutti da settimane, lo dicevamo tutti e lo sapevano tutti da settimane. Non sono intervenuti, non li hanno fermati. Ecco perché purtroppo quella manifestazione non si doveva fare. E quindi i contenuti oggi. Su questo sono d'accordo con lei. Assolutamente, passano in secondo piano. Io vorrei precisare che non sono assolutamente ideologicamente la parte dei black. No, poi, tra l'altro, scusi Paolo, certo che passo in secondo piano, ma l'avete sentite quelle persone lì che non sono nemmeno in grado di dire che la violenza è sbagliata e che i manifestanti hanno sbagliato a spaccare le vetrine? Anzi, dicono: non ci permettiamo di giudicare altre forme di manifestazione di piazza. Cioè, poi uno dice che c'è la distinzione tra la piazza pacifica e la piazza violenta. No, ma l'hanno condannato perché parlano un linguaggio folle. Ma che condannato? Ma quale condannato? Comunque, pensare che quelli sì, io li ho visti questi qui. che sono. Ma non è questo, è un problema culturale. È un problema culturale. Non è tale, certo che non prendono. A mangiare il panino con la tendina, amico vabbè. Mio. Allora, non hai capito che voglio dire. È un problema culturale. Se non condanni duramente la violenza, tu ma che l'hanno fatto. Tu che partecipi al corteo, se non condanni duramente la violenza, sei connivente, peggio degli altri. Marco da Prato, buonasera. Sì, riprendiamo allora, il discorso Marco, di prima. Riprendiamo il discorso di prima, Cruciani. Voglio dire semplicemente una cosa, a parti invertite, cioè moriva il carabiniere Caprarica e si salvava Giuliani. Lei pensa che avrebbero mai intitolato un'aula della Camera al carabiniere, forse? Ma certo. Non lo so, quello non lo so. Quello ma può c'è darsi. Un'altra cosa, c'è un'altra cosa molto più grave che a tutti sfugge. Le sistematiche azioni di disturbo, chiamiamole disturbo, che vengono fatte sempre e comunque quando qualcuno fa un'azione che non è gradita ai soloni della sinistra. Mi riferisco, guardi, molto semplicemente a quando il giornalista Panza ha avuto l'ardire di presentare qualche suo libro in giro per l'Italia. Manca poco che lo linciano. Questo è il concetto. Non si fa parlare l'avversario. La piazza viene chiamata a fare questo, non a discutere. Peraltro ho una mia semplicissima opinione. Chi chiama perennemente la gente in piazza vuol dire che ha un vuoto pneumatico politico nella testa, perché non riesce a far emergere le proprie capacità e nemmeno le proprie idee. Quanto mi piace questo Marco da Prato, quanto mi piace. Continuamente la piazza, continuamente la piazza, e solo la piazza. Qualunque. Infatti sono 15 anni che perdono regolarmente tutte. Vabbè, le questo elezioni. È un altro discorso. Marco, la ringrazio. Ricordiamo solo che quando il governo Berlusconi era Berlusconi era all'opposizione, sì. Anche lui fece una grande manifestazione di piazza. Quindi male. Perché deve bisogna stare a casa? No, fece la manifestazione di piazza, sì. Per denunciare il governo illegale di Prodi, eccetera. Malissimo. È stato un bel esempio di democrazia. Malissimo. Quale esempio di democrazia? Per denunciare che cosa? Quali illegalità? Nessuna illegalità c'era alcuna illegalità. La vita democratica fatta di fammi sentire Giancarlo da Torino, ma non è che si può manifestare ogni giorno. Giancarlo ogni da Torino giorno. Sì. Buonasera. Dica. Senta, io volevo fare i complimenti dottor Cruciani, perché lei veramente riesce a inserire le nefandezze dette dal senatore della Repubblica Pancio Pardi, e me lo lasci dire. Gliel'ha detto lei, alle 7.36 gli ha detto al dottor Parenzo, se lo posso chiamare così, che ha detto una stronzata. Perché secondo me il signor Parenzo domenica, se va ai Notav, gradirei che beccasse tante di quelle mazzate. No, perché Giancarlo, no, che cos'è questa stupidaggine? Lui doveva dire solo una cosa, come giustamente guarda. È da due sere che lei sta difendendo, giustamente. Allora, soperare, fare dimostrazioni, per carità di Dio, è legittimo. Ma attenzione, dov'è che sta difendendo? A quella gente, dottor Parenzo, a quella gente che gli hanno bruciato le macchine, gli hanno spaccato i negozi. Ma secondo lei? Glieli va a pagare lei con i 7 giorni alla settimana che lavora? Perché io ho difeso quelli? Ma per cortesia, ma c'è 3-6... Ah, perché lei... io ho difeso quelli? Ma guardi che non c'è bisogno di una laurea in giornalismo per capire che sta dicendo stronzate, perché se non c'era il moderatore, dottor Cruciani, lì... Moderatore. A Pancio Pardi, il senatore della Repubblica... Moderatore. E poi, tra parentesi, vi meravigliate chi ha scelto Scili Poti e l'altro lì che non ricordo? Raggi. Ma signori miei... Ma il dottor Di Pietro che ha preso la laurea. Bravo, mi piace sto Giancarlo, battagliero, signori, lotta come un leone. Io ho fatto il carabiniere e le ho prese le botte in piazza San Babila. Ma io quando mai 1900, ha capito cosa avrebbe dovuto fare la polizia ma sabato? Ma quando mai ho difeso io questi allora questi vuole che le dica dottor Cruciani cosa mi dica sì. Ma onestamente sì. Onestamente, poi da questi signori della sinistra ci sentiamo dire che ci sono le leggi e vanno applicate. Ma cosa? Lei lo sa che i carabinieri sono comandati all'ordine pubblico dal questore? Neanche dal suo comandante. Vabbè, allora lasci perdere. Allora, questi signori hanno devastato Roma. Insomma, cosa bisognava fare? Questo lo sappiamo, Giancarlo. Vuole che le dica da ex carabiniere cosa sì. Quello che ha detto quel signore ieri alle 7.38, che lei ha detto, beh, non così. rispondere, cioè? Con le stesse armi, cioè sparare tutti, sparare tutti. Lei è ancora carabiniere? No, falciarli tutti. Scusi, lei è ancora un carabiniere? Certo. Mi sento un po' meno sicuro, amico mio. Oggi mi sento un po' meno sicuro. No, non è ex carabiniere. Ascolti, Parenzo, ascolti. Lei, guardi che mio nonno è stato questore, eh? Allora, mi ascolti. Mio nonno è stato un questore. La caserma in via Vincenzo Monti a Milano. Le basta? Giù con la radio mobile. Vabbè, insomma, che bisogna falciarli. Ma può uno dire una roba così? Le dico solo una cosa, dottor Parenzo. Lei, quando ha sentito quella grande... Me lo lasci passare, dottor Cruciani. Dica. Tanto lei ha detto che Radio 24 è una radio libera. Allora, beh, sì, quando... Certo. No, nel senso che, voglio dire... Ma vabbè, allora... Della base della polizia, quando il senatore della Repubblica, un certo Pancio Pardi, ha detto... Che già il nome mi sembra... Vabbè, Pancio Pardi. Voglio dire, ha detto testuali parole... Ha detto, ma d'altronde se il governo ha speso i soldi alla Maddalena, ma perché lui cosa sta facendo adesso, senatore della Repubblica, che prende lo stipendio della cattedra insegnante dell'università e in più si prende 15.000 euro come senatore della Repubblica? Vabbè, questo che c'entra, Giancarlo? Comunque mi piace sto Giancarlo, lotta come un leone, è bravo sto Giancarlo. Andiamo a sentire la pubblicità, 800 24 00 24. Restate con noi, la Zanzara si lotta fino alle 21. Parenzo, non ti intimidire, sei sembrato un po' timido in questo frangetto, un po' timido. Io lo denunzio, che timido. Eccoci qui alle 8 in punto, 800 24 00 24. Poi ci prende anche in giro, o possiamo dire chiaramente ci prende per il culo questo ragazzo arrestato oggi, no? Quando sostiene che voleva spegnere l'incendio, sì, che voleva... Che però per spegnere l'incendio non si tira, non si deve lanciare l'estintore, diciamo. Bisogna spiegargliela, ragazzotto. Cioè, va... Lo sa anche un bambino, credo, che se tu lo lanci da solo non è che lo spegni. Non è che spegni. Comunque, guarda, veramente. Sì, poi in realtà non sarà questo il caso, ma sembra che questi signori, quelli che si erano preparati alle violenze, siano consultati anche prima con gli avvocati, cioè si mettono d'accordo anche sui vestiti, sulle versioni da dare, parlare, non parlare, cosa dire, cosa non dire, no, tutta una cosa organizzata. Gente, perché sfruttano che cosa? Sfruttano che cosa? I meandri, come dire, no? Le minuzie della legge italiana e le interpretazioni che di questa legge possono dare anche i magistrati, diciamo la verità, insomma, questa è la realtà. Io non voglio dire niente. No, voglio dire, poi c'è il diritto alla difesa, però spesso si utilizzano tutte le tecniche possibili immaginabili per sfuggire alla giustizia. Questa no, è la questo realtà. Voglio dire, questo c'è qualcuno che ce lo insegna in alto locco, diciamo, anche, no? In alto ad locco. Altri livelli, dici tu, no? Ad altri livelli. Ad altri livelli, la furbizia della persona. Ma non è questo il tema, perché il tema è lo un ascoltatore dice: date la scorta a Parenzo, altrimenti lo gonfiano. Ma io non ho nulla da temere. Io rivendico il diritto del signor Parenzo domenica ad andare a fare un servizio per la 7 al cantiere Notav, dove il signor Perino, oggi uno dei leader della protesta, in un'intervista ha detto che bisogna, abbiamo l'audio per caso? No, non abbiamo nemmeno l'audio, no. Io vado lì a fare il mio lavoro. Mi sembrava ci fosse l'audio, non c'è l'audio. Uno dei leader della Notav ha detto che è un diritto prendere le cesoie e aprire le reti, capito, dei cantieri. Questo ha detto il signor Perino. A me sembra una stronzata. Non è che è una stronzata, è una cosa gravissima, di una gravità inaudita. A me sembra una cosa molto molto pericolosa, molto Vabbè, Giancarlo da Roma, violenza. Giancarlo da Roma, buonasera. Sì, buonasera, sì, dica, un altro Giancarlo. Questo forse vi piacerà un po' di meno. No, volevo semplicemente fare un breve riepilogo di chi, visto che sono di Roma, di chi abbiamo come sindaco, in realtà, visto che chiede permessa riguardo gli scontri a Roma. Vorrei ricordare che il nostro sindaco nell'82 è stato fermato per aver lanciato una bomba Molotov contro l'ambasciata dell'Unione Sovietica a Roma, scontando 8 Lei sta parlando di Alemanno? Lei sta parlando esatto, di Alemanno. Il nostro Alemanno. Ma Alemanno era militante della destra italiana, come lei sa, no? esatto, ma infatti oggi è il nostro sindaco che parla di fermare queste, appunto queste. Vabbè, ho capito, non è che uno può essere appeso, non è che uno può essere appeso a quello che ha fatto negli anni 70 quando era militante del Fronte della Gioventù. Abbia pazienza, ci mancherebbe, però come diceva in apertura il signor Farenzo, in realtà queste persone che poi devono darci gli esempi, non mi pare che abbiano un passato così pulito da poter dare degli esempi a dei ragazzi che crescendo sanno che nel passato o anche nel presente. Però è diverso, perché... me è diverso, perché Alemanno ha fatto un percorso politico trasparente alla luce del sole, dove è passato dalla destra, dalla piazza, dagli anni 70 a una posizione di governo. Cioè l'Alemanno di oggi non è l'Alemanno di 30 anni fa, come il mio amico Sergio D'Elia, ex prima linea oggi dei radicali, impegnato nell'associazione Nessuno Tocchi Caino, non è l'ex di prima linea, cioè le persone cambiano. Questo è il punto. Avete ragione, ma oltre ad essere stato, appunto, per aver passato gli 8 mesi in carcere nell'82, ci ha riprovato nell'89. Sì, ho capito. Ci ha riprovato a fare cosa. Scusi, Giancarlo, perché adesso con tutto quello che accade, lei ci vuole parlare del passato di Alemanno? Ora, per carità, sarà anche una cosa importantissima, fondamentale. Io non ho in particolare, come dire, non ho questo grande trasporto per il signor Alemanno. Non devo difendere Alemanno, non me ne frega niente. Ma sinceramente, il passato. Il sindaco di Roma, ma scusi, non ho capito, è il sindaco di Roma eletto democraticamente, hanno devastato mezza città e non può dire nulla, secondo lei, perché nell'82 è stato arrestato? No, il provvedimento è sbagliato. Ci mancherebbe, non è che una persona non può dire quello che vuole, appunto quello che oggi può dire, però in realtà scoprire poi in realtà se uno non come me, perché io bene o male sono abbastanza informato, ma se uno come me che oggi legge tutte queste bellissime cose poi si ritrova comunque a dover confrontarsi con la realtà di un personaggio pubblico, sindaco. Direi che non è così distante, sono passati neanche da chi? Vent'anni. Cioè dice Alemanno è come quei Black, ma lei è pazzo totalmente, lei lo sa. Non è come uno lanciava le bombe contro l'ambasciata russa. Al di là della diversità dei casi, che è evidente, e non sto dicendo che lanciare le bombe contro un'ambasciata sia meglio di distruggere un negozio, non è questo il punto, ma non ho capito cosa c'entra. Cioè, secondo lei non è legittimato a parlare perché anche lui un passato da teppista, dice lei, a parte... è legittimato in, diciamo, non proprio in pieno, come non è legittimato in pieno, benissimo. Questa è un'interessante teoria, insomma, questa qua è un'interessante teoria. No, io invece giudico nel merito quello che Alemanno ha proposto, cioè quello di vietare per un mese i cortei. È consentito riunirsi in piazza, ma sono in alcuni punti della città non si può passare. Ma non mi sembra uno scandalo, è una cosa normale. Io la reputo una sciocchezza. Non far sfilare la FIOM per la città è regalare. Ma non mi pare che la FIOM sia comunque si sia opposta in maniera particolare. Capisce il momento e capisce anche che nella manifestazione della FIOM potrebbe infiltrarsi qualcuno. Nessuno, perché c'è un grande servizio d'ordine. Se si avvicina qualcuno, quelli della FIOM che sono operai contro cose, gli tirano due mazzate sulla testa al Black Bloc lì. Vabbè. Giancarlo, grazie. Giorgio Stracquadani è con noi, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Un uomo moderato. Io bene, grazie. Perché? Che c'ha di... No, spero che sia ancora un vero liberale, come lo ricordo io, Giorgio Stracquadani. Perché? Come deve essere, scusa? Un vero liberale, lui viene dai radicali, quindi spero che su alcune cose converrà con me. Cioè che... su questa storia delle norme... Anche sul vietare i cortei, anche su... siccome è un vero liberale, credo, se non ricordo male, l'onorevole Giorgio Stracquadani. Cioè sulla fideiussione, queste robe qua. Credo che sarà contrario. Il DASPO, insomma i provvedimenti speciali, che poi in realtà tanto speciali secondo me non sono, ma sono normali in una democrazia, almeno secondo me. L'avvocato Pecorella, Stracquadani, oggi ha detto che non serve nulla, che bastano le regole, basta l'intelligence. Lei che dice? Io concordo che non occorrono leggi speciali, ma occorre utilizzare le leggi normali per evitare situazioni straordinarie e speciali e che sono in aperta violazione delle regole democratiche. Cioè quali sarebbero le norme in aperta violazione della regole democratiche, scusi? No, le norme, le situazioni. Le situazioni fatte, sì. Infatti, allora se il sindaco di Roma prende un provvedimento amministrativo perché per un mese limita l'accesso delle manifestazioni in alcune zone, non impedisce lo svolgimento delle manifestazioni democratiche. Aspetti, Straquadrana, ma... che non sentiamo niente, la sentiamo disturbata, non lo so dove si trova, c'è un rumore strano dietro, pubblicità e torniamo subito. Poi di nuovo Giorgio Straquadrana, PDL, sull'attualità. Allora, intanto impazza il nuovo litigio in casa Lega, dove le cose non vanno affatto bene, perché poi alla fine viene fuori la realtà, la verità, no? Di fronte a certe dichiarazioni rilasciate qui alla Zanzara ieri sera dal sindaco di Verona Tosi, oggi Bossi ha fatto il dito medio a Tosi e ha detto: Tosi è uno stronzo, ha portato un sacco di fascisti nella Lega. E allora noi ci colleghiamo in diretta, come al solito, come ogni sera, quasi ogni sera, con la Reggia Reale di Monza, la Reggia Reale di Monza, dove c'è naturalmente Umberto Bossi. Buonasera. Che è successo? Ministro? Che succede? No, stavo fumando il sigaro. Allora, Ministro, scusi, ci può dire qui Radio 24, non Radio Padania? Allora, cos'è? Radio 24, Radio 24. Aspetta un attimo che Calderoli, il solito coglione, mi chiama sempre da sta Radio 24, caputo. Vuoi dire qualcosa? Se ci vuole devo comprare sta cazzo di radio con credito Euronord, due soldi che abbiamo da parte. Vabbè. Allora volevo dire questo, che abbiamo parlato anche con Calderoli. Abbiamo fatto federalismo fiscale. Ma no, quello l'ho capito, ma c'è la questione di Tosi. No, hai capito, non fa bene, abbiamo ragione che sei un coglione. Ti veniamo a prendere con tutte le camicie verdi, ti portiamo via, proprio ci diamo delle pedate, ti mandiamo con le pedate in Marocco. Così dal Marocco puoi fare la tua zanzara, al zanzara, tutta in arabo, la fai in arabo, tanto ormai sei Google, ormai arabo, quindi la puoi fare tutta da lì. No, però lì. Scusi ministro, tutta qui oggi c'è la vicenda Tosi, lei ha dato dello stronzo a Tosi. Tosi è stato un ingrato, l'abbiamo fatto diventare sindaco di Verona, doveva esserci un altro sindaco, l'abbiamo fatto lui, doveva farlo Renzo. E invece abbiamo scelto. Come re, che c'entra Bossi? Che c'entra Renzo? Vedi che non sai niente, come sei di Roma, e Roma la Verona, non sai niente. Cioè, sai mangiare solo la caricia, nome di me, la pastaggio della caricia, questa non mangi mai. Vabbè. La poletta taraglia. E quindi è un ingrato. E allora adesso ha detto una stronzata, sta mettendo in discussione tutto il movimento, sta distruggendo il movimento, creando la fronda contro di me, contro Calderoni che lavora ogni giorno qui a semplificare, e invece non semplifica niente, tutto non funziona niente. Continua a semplificare, è tutto più complicato di prima, invece non si capisce perché. Vabbè, ma perché lei addirittura dello stronzo gli ha dato? Perché uno stronzo ha detto delle cose, ha detto adesso è l'ultimo mandato che fai uno stronzo, a parte che va a sparare in giro, quindi non va più bene per la legge. Sparare a caccia va. Anche con la Rosi Mauro, ho parlato con la Rosi Mauro. E chi candida a Verona? Con mia moglie, a Verona stiamo scegliendo un candidato di giovane tanto. Sempre perché la Lega è giovani, sì. Per esempio adesso c'è un giovane ragazzo che è occupato a Milano, sì. Al nord, lo vediamo a Verona. Ma chi ha già delle idee su trasformare la casa di quei due di Giulietta e Romeo, quei due cretini, quei sì. Due lì inutili, trasformare quella nella grande casa della Padania, ad esempio. Ma come? Sì. Una cosa storica, Giulietta e al posto dell'arena faremo lì la sede, l'arena è una roba romana, l'arena non ci interessa. Tosi ha sbagliato tutto, ad esempio, perché a Verona doveva buttarla giù l'arena e costruire, ad esempio, e costruire il grande palasport del nord, dove fare le gare di bicicletta con Renzo. E tutto ha sbagliato l'arena. Stai zitto che tu sei di Roma, l'arena è come il Colosseo, non c'è, capito, è una roba romana, è di Roma, cosa c'entra a Verona l'arena? Via, questo è il programma della Lega, via da Verona l'arena. Beh, torni al sud, torni a casa sua. Un attimo, c'è il traffico, Straquadrana, resti con noi perché la vicenda Tosi Bossi, intanto chiudiamo il collegamento, grazie ministro, con la Villa Reale, perché che cosa ha detto Tosi qualche istante fa? Spiace che Umberto Bossi abbia frainteso le mie dichiarazioni e lo invito ad ascoltare per intero la registrazione della trasmissione alla Zanzara, durata quasi un'ora, durante la quale ho difeso senza alcun tentennamento lui e il nostro movimento. Sì, certamente ha difeso lui e il nostro movimento, però quella cosa l'ha detta, cioè non c'è dubbio che l'abbia detta. Ha detto esattamente le parole riportate e poi successivamente da tutte le agenzie, cioè dire che molti dirigenti, diversi parlamentari della Lega, diversi parlamentari della Lega hanno il voltastomaco a votare alcuni provvedimenti. Hanno avuto il voltastomaco. Questo è letterale, non abbiamo stravolto nulla. Risentiamo. No, ma adesso lo facciamo risentire dopo il traffico, naturalmente, perché sono le 20:16. Però giustamente Tosi dice che ha difeso lui e il nostro movimento, cosa vera assolutamente, ha difeso la posizione di Bossi anche nella vicenda di Varese, dopodiché quella frase l'ha detta. Diversi parlamentari della Lega nel votare alcuni provvedimenti hanno avuto il voltastomaco. Io credo che sia vero. Io credo che Tosi abbia detto una cosa vera, reale, concreta. Non vedo cosa ci sia di strano, non vedo perché Bossi deve dare dello stronzo a Tosi, o addirittura dell'ex fascista o fascista addirittura a Tosi, per aver detto una cosa vera. Forse il torto è quello, aver rivelato una cosa vera. Sotto il salice, non stare lì così, mettiti comoda, sull'erba batto spesso il discicorico. Eccoci, 2019 800 24 00 24, grande polemica. Stracquadani, allora, quali sono le leggi da fare e quelle da non fare? Per esempio, il DASPO, si può fare secondo lei il DASPO per i manifestanti? Questo si può fare, ma non è una legge speciale. No, cosa? Per leggi speciali si intende quello che abbiamo letto oggi sui giornali, la legge reale. Quella che venne dopo, chiamata la legge antiterrorismo Cossiga, cioè norme eccezionali che incidono sui diritti di libertà individuale. E queste, il DASPO c'è già per i tifosi di calcio e non mi pare che abbia anche se è di difficile applicazione, come fai a non fare? È difficile applicazione, però io vorrei dire un'altra cosa. A, non occorrono leggi speciali. B, il provvedimento del sindaco Alemanno non è una norma speciale, assolutamente, ma è una decisione ordinaria in una situazione di difficoltà, è una follia, che è comprensibile a tutti. C, ma perché un mese, scusi, onorevole, momenti della storia, posso... No, allora, diceva perché un mese. No, perché un mese, allora facciamo 3 mesi, sì. Ma che discorso è? Può dire al suo interlocutore che non siamo a casa Vianello? No, ma la tensione è una tradizione. No, vabbè, onorevole Stracquadani, ha semplicemente. Sì. Io stavo cercando di dare una casa di ma neanche al carosello. Forse vi risulterà interessante invece di fare polemica. Beh, questo è difficile da valutare, forse... comunque. Pronto? Sì, io non parlo finché sono no, in no, siamo qui. Il prossimo stadio negli anni 70. Sì. E il ministro degli interni si fosse chiamato Francesco Cossiga e fosse successo quello che è successo sabato a Roma, noi ci troveremmo oggi nella stessa situazione politico-parlamentare? Punto di domanda. Detta diversamente, se io ho letto sui giornali l'intervista a uno di questi teppisti e terroristi di guerriglieri urbani che si è addestrato in Grecia, che sono state lasciate armi lungo il percorso della manifestazione con dei segnali per individuarle, che c'era un furgone bianco da cui si alimentavano regolarmente, l'abbiamo visto in televisione. Sì. Ho visto poi il fatto che il furgone dei carabinieri è stato lasciato bruciare senza nessun intervento per spegnerlo e i vigili del fuoco sono arrivati quando ormai il furgone era totalmente bruciato, che la piazza era nella piena disponibilità dei guerriglieri. A lei non sembra una cosa su cui farsi qualche domanda? Cioè, la risposta che lei dà qual è? Io non mi do una risposta. Ho capito, lei si fa le domande. Perché? La ricostruzione dei fatti da parte del ministro degli interni oggi e non mi ha definitivamente convinto. Cioè, secondo lei, scusi... Ci aggiungo il fatto... No, mi perdoni. Sì. Aggiungo il fatto che molte delle... azioni che sono state compiute erano annunciate su internet, cioè non avevano bisogno di grandi infiltrazioni. No, sono assolutamente d'accordo con lei. Inadeguato. Io ho il dubbio. No, dica un attimo che finisco. Dica a Parenzo. Perché forse la cosa è un po' più grave. No, però è vero. Il ministro degli interni fosse stato un altro, o fosse stato berlusconiano, oggi avevamo il Parlamento bloccato. Bravo. Siccome il ministro degli interni è quello che si spera da sinistra che stacchi la spina, allora non se ne discute di quello che è successo sabato. E non si discute se l'intervento della polizia e la prevenzione svolta siano state adeguate. E siccome io ho le polemiche, in realtà le polemiche, è vero che sono blande, però le polemiche sul ruolo, cosa ha fatto Maroni, soprattutto sul fatto che Maroni fosse a Varese quel giorno lì, io questo lo trovo gravissimo, personalmente trovo gravissimo, e voglio il suo conforto, Stracquadanio, che Maroni quel giorno non si trovasse a Roma, ma era a Varese, o no? Ma come mai? Pronto, Stracquadanio? Stracquadanio? Adesso lo riprendiamo, comunque, la notizia che ha dato è forte, Stracquadanio, eccoci qua, scusi un attimo. Volevo sapere una cosa. Secondo lei è normale che il ministro degli interni non fosse a Roma ma a Varese? No, non è normale, neanche questo. Visto cosa era annunciato. Cioè è grave. Io, se fossi stato ministro degli esterni, sarei rimasto, perché è il modo migliore per dare alle forze d'ordine il senso di avere un governo dietro le loro spalle. Scusi un attimo, ma qualcuno la risoluzione che c'è stata oggi al Senato, sì, a me non ha ancora convinto, perché mancano risposte ad alcuni interrogativi che io ho posto adesso nella vostra conversazione. No, però secondo me è il punto cruciale. Il punto cruciale è, dunque, se non ho capito male, lei dice Maroni ha sottovalutato il problema? Sì, secondo lei. Sì. Almeno ha sottovalutato il problema. Ecco, invece facciamo un passo avanti. Lo ha sottovalutato per creare difficoltà al governo? Non lo so. Lei vuole io dire non questo. Posso arrivare alle conclusioni se salto le domande intermedie. Beh, già dire allora, non lo so, è forte. Io vorrei sapere perché tutte queste cose che io ho detto e sono apparse sui giornali, non sono state altrove, non sono state ben chiarite dal ministro. Dopodiché posso formulare un'ipotesi. Qual è l'ipotesi? Non lo so. Quando dei fatti posso formulare un'ipotesi. Ne posso avere 4, 5. No, però ho capito. Certezza, sottovalutazione, ipotesi come volontà di mettere in difficoltà il governo. L'idea che a staccare la spina potesse essere una manifestazione, non un voto parlamentare. Sa, da quando Maroni ha orientato la Lega sul voto su Papa in quel modo, sì, io qualche dubbio ce l'ho. Senta un attimo, dubbio sul fatto che voglia sgambettare il governo. Interessante. Dubbio su un disegno politico che non mi è chiaro. Qui c'è notizia. La domanda è questa ancora. Maroni, secondo lei, per quello che è successo in piazza, per come è stato condotto l'ordine pubblico in quella giornata, per il fatto che era a Varese e non a Roma, o dove diavolo era, non lo so. Insomma, secondo lei. Non c'è ancora materia per chiedere le dimissioni. Non c'è ancora. C'è materia per fare domande. Attendere risposte. Cioè, che cos'è che non l'ha convinta dell'intervento di oggi al Senato? Che la ricostruzione di fatti non ci dice di tutto quello che stava accadendo prima, cioè gli annunci di quelli di Arupana sulla rete, la distribuzione del materiale con cui è stata condotta la guerra lungo il percorso del corteo, l'esistenza di un furgone che distribuiva bombe carte o altro, il fatto che il camion, il blindato dei carabinieri sia stato abbandonato a bruciare, costituendo per il fatto stesso che bruciava un pericolo e una potenziale arma in una battaglia urbana. Insomma, il fatto che la conduzione della piazza e della prevenzione della piazza medesima non sono convinto. Sia stata pessima, è stata pessima la prevenzione. Io dico che inadeguato. Si poteva evitare che questi terroristi, guerriglieri, arrivassero a Roma. Assolutamente. E questo con leggi ordinarie, non con leggi speciali. Ordinarie, assolutamente ordinarie. Si potevano enucleare dal corteo. E si poteva anche negoziare con gli organizzatori, sono i COPAS ufficialmente che hanno chiesto la piazza, che loro ci dotassero di un servizio d'ordine, che una serie di personaggi che si conoscono fossero messi fuori gioco, preventivamente. Questa azione non c'è stata, la responsabilità principale è certo in capo a chi ha organizzato la manifestazione, ma carenze della prevenzione degli scontri ci sono e state. Nella gestione della piazza, a mio avviso, ci sono state. Parenzo? Lei dice il fatto che a guidare, diciamo, questa fase, cioè, è un ministro del Lega. Ha eliminato polemiche che invece se ci fosse stato uno di PDL sarebbe successo un casino. Beh, quello ha detto. Ah, da parte della sinistra sì. Sì. Vabbè, qualche critica, qualche critica c'è a Maroni. I miei dubbi non nascono dal fatto che sia un ministro della Lega invece che sia del PDL. Se fosse stato un ministro del PDL avrei fatto le stesse obiezioni. Ma dal fatto che è Maroni, dice lei? No, il fatto che la sinistra, ho solo detto che la sinistra gliel'ha lasciata passare perché Maroni è quello che nell'immaginario collettivo dei nostri avversari deve staccare la spina al nostro governo. Se Maroni ci pensa a staccare la spina, è l'uomo dell'eutanasia. Secondo loro, ho detto. Secondo loro, e Maroni? E Maroni? Non l'ho detto secondo me, se Maroni no, qualcuno glielo chiede. No, Maroni nel senso che si... Secondo lei Maroni ci pensa. A Maroni piace questo ruolo? Non lo so se gli piace. No, però io, secondo lei? Io non lo so. Nel momento in cui lui ha preso la decisione di invitare i suoi a votare per l'arresto di Papa fotografandosi la mano che vota. Può fare di tutto poi. Può fare di tutto poi. E non ecco, mi sembra un gesto che ha la sua, come dire, pregnanza. Come gli è sembrato pregnante nel 94 quando il governo varò il decreto Maroni-Biondi, quello sulla custodia cautelare in carcere, che rimase solo decreto Biondi e Maroni, che l'aveva firmato, disse di non averlo letto. Ma lei se lo vede Maroni come quello che progetta, diciamo, di non intervenire in piazza perché la piazza può far saltare Berlusconi? No, ma che sottovaluta il pericolo? Che sottovaluta il pericolo, beh, quello è un altro discorso, quello è una cosa di incapacità. Il suo legame col governo è più basso? Sottovaluta il pericolo anche perché il suo legame col governo è più basso, che significa? Cioè che il suo legame con chi? Con i servizi? Se uno ci tiene meno al governo, sì. Al governo, e se pensa che ci debba essere una nuova fase, sta a Varese invece che occuparsi della manifestazione. Addirittura. Beh, insomma, si occupa del governo di Varese, delle polemiche interne alla Lega a Varese. Ma perché che doveva fare a Roma, scusi, non ho capito, stare a Roma, su questo perché il 15 agosto il ministro degli interni sta a Roma? No, questo ha ragione Stracquadanio, io veramente trovo atti simbolici, ma bisogna stare a Roma, manifestazioni, no, il governo dietro le forze dell'ordine, su questo lo trovo un errore clamoroso. Ma è dietro i telefoni, lui sta lì a controllare, ma non c'entra niente, aggiornato. Non c'entra niente. Parenzo che vuole che Maroni stacchi la spina, non lo attacca. No, ma lei guardi, tecnicamente lei ha ragione. Ha ragione Stracquadanio, di tutti i vizi della sinistra. Ha ragione Stracquadanio, Maroni è diventato un idolo per Parenzo, un idolo assoluto. No, a me è sempre piaciuto Maroni, ma simbolicamente anche mi è sempre piaciuto dal 94 sempre. Della Lega, una di quelle. Vabbè, abbiamo la borsa, un attimo, torniamo subito. Bene, siamo qui 800 24 00 24, con ancora qualche minuto con Giorgio Stracquadanio, PDL, sì. E con David Parenzo in collegamento come al solito. Allora, ci sono ascoltatori naturalmente all'800 24 00 24. Volevo da Stracquadanio una parola definitiva sulla questione delle garanzie patrimoniali per manifestare. È abbastanza difficile da applicare questa cosa, mi dica lei, una stronzata Stracquadanio? No, è difficile da applicare per la semplice ragione che è difficile stabilire anche la proporzione tra il potenziale danno e la garanzia patrimoniale da offrire. Sì. In epoca, come dire, di credit crunch non è facile. Detto questo, ci vogliono serie garanzie politiche. E le garanzie politiche si ottengono se i manifestanti non vengono lasciati manifestare sulla base della loro sola richiesta. Negli ultimi tempi a Roma, bisogna scegliere, bisogna sapere, si possono proibire. No, bisogna chiedere certi requisiti di ordine pubblico, requisiti di responsabilità, di titolarità, di responsabilità, di identificabilità di chi partecipa alle manifestazioni. Vabbè, ma quando alle manifestazioni ci vanno 200.000 persone, come si fa? Guardi, si fanno le manifestazioni da 200.000 con servizi d'ordine ordinati, o si fanno manifestazioni che, se non si è in grado di garantire un servizio d'ordine adeguato, non si fanno. Non si fanno. Cioè lei vieterebbe in alcuni casi le manifestazioni? Garanzie democratiche, garanzie di nello svolgimento. Il fatto che il sindaco abbia detto si possa manifestare, ma non attraversando alcune zone dove il controllo da parte delle forze dell'ordine diventa anche più difficile. Infatti io quello lo trovo una follia. Che via la Muerulana e via la Bicana passano, sì, passa il tram. Ovviamente sabato non passava il tram, ma c'è la barriera di metallo. Sì, è vero, è vero, che impedisce, è vero, l'attraversamento della strada e crea delle strettoie pericolosissime. Ma anche via Cavour ci sono tanti. La manovra dei blindati, via, certo, Cavour. Cioè ci sono zone dove sono il regno della guerriglia urbana. No, ma infatti è questa la follia. Perché sta guadagnando? Lei si è mai chiesto? Certo, lei si è mai chiesto, sì, perché non si può organizzare, siccome le manifestazioni non è che sono fatte per fare la guerriglia urbana, sono fatte per esprimere delle idee attraverso. Ma non è che sempre succede che c'è la guerriglia urbana? No, che dite? No, però voglio dire, lascia perdere. Evitarla. Parenzo, che c'entra? Bisogna evitarla anche se succede una volta ogni 10 anni, non c'entra nulla. Questo argomento c'è sempre, certo che non c'è sempre la guerriglia urbana, a parte che c'è per spesso. Una è avvenuto 2 volte in tutto, per fortuna. Ma non è vero, non è vero. A Genova è 2 volte a Roma. Ma no, ma lascia perdere la proponibilità. Ma dice a Parenzo, quando costruiamo gli stadi, gli facciamo intorno un bel piazzale, non li mettiamo al centro della città. È successo anche che nel passato fossero al centro della città, e ancora ce ne sono al centro della città, purtroppo. Ma abbiamo allargato sempre gli aree intorno. Certo. Allora, lei si è mai chiesto per creare corridoi di reflusso? Certo, ma lei si è mai chiesto? Lei si è mai, certo, assolutamente. Lei si è mai chiesto perché non si può organizzare, per esempio, a Roma una bella manifestazione lungo la Cristoforo Colombo? Sarebbe straordinario. Una manifestazione, certo, lungo la Cristoforo Colombo. Dov'è il problema? No? Cioè, ma perché, cioè, vuol dire una cosa da chiarire, una strada larga, uno stradone largo, controllato, dove la gente esprime le proprie idee senza rompere i coglioni alle persone. Non si possono rompere neanche le panchine. Non si può rompere nulla, perché sì. Non ci sono neanche le panchine, lì. Sì, ma non capisco perché non si possa fare. Comunque, tutto un problema di ordine pubblico. E perché? Che cos'è, scusa? Appunto, perché che cos'è? Fare una cosa. Mi fa ridere, perché voglio dire, ne discutiamo. Ma ah, perché tu sei quello che dice, come alcuni, ma no, parliamo di ordine pubblico, in realtà bisogna dare delle risposte a quei ragazzi. No, ma che sei matto? Cioè, io ti vorrei fare riascoltare. No, quelli che nel 77 avrebbe detto Zangarin, Zangarin, brucia tutta la città. Bologna. No, quello non credo. Io, quello lo guarda, credo. Io sono d'accordo con i radicali che nel 77 erano contro le leggi speciali, quindi voglio dire, non ma questa non è una legge speciale. Allora, comunque, un attimo solo, voglio farvi riascoltare, però, perché per me è una cosa emozionante, perché la piazza pacifica, la piazza intelligente contro la piazza violenta, no? Ha assistito a questo scempio anche Stracquadanio ieri sera, se non sbaglio, all'Infedele da Lerner, sì, quei ragazzi che erano in piazza a Roma, piazza Santa Croce in Gerusalemme, eccetera, sì, i quali non parlavano, non rispondevano a delle domande, non ma volevano rispondere. Sorridere, ma che sorride? Ma certo, no, che fanno sorridere. Loro parlavano per comunicati. Per comunicati, ma di cosa stiamo? Come c'era qualcun altro che nella storia parlava per comunicati, io mi sono un po' agitato. Ah, lei si è agitato, questo non l'ho visto. Ma scusi, no, mi sono agitato interiormente. Ah, ecco. Mancava solo la numerazione dei comunicati. Cioè, adesso dai, leggiamo il numero 1, poi il numero 2. I comunicati, Parenzo, i comunicati. Io sono il primo, scusatemi però, tutte e due, io sono il primo che ho assistito ieri alla trasmissione e ogni volta che prendevano la parola quei ragazzotti mi sembrava di stare in un film comico. Ma quale risposta devi dare a questo qua, amico mio? Non c'è nessuna risposta tutto, da dare. Dire che questi qui fanno i comunicati come i terroristi, mi pare una roba folle, perché questi qui tutto no, sono. Ma è la della mentalità. Ma è che sia un gruppo separato che parla per comunicati ufficiali, ma va bene, cioè, perché sono diffidenti in guerra col mondo, ma perché sono diffidenti rispetto ai media, ma questo ci può anche stare. No, ma non è quello, ma noi non stiamo dicendo che è una cosa grave, io sto dicendo che è la mentalità, ma che mi fa ridere, esatto. Ma mi fa solo sorridere. Basta, ma perché ti fanno ridere queste cose quando sono gli stessi che non hanno nemmeno la forza di dire che la violenza è sbagliata e dico noi non giudichiamo. Bravo. Un altro modo di stare in piazza, ma ti rendi conto o no? Questo non deve fare sorridere, perché questo è il motivo per cui parlare. Cioè, esatto, è il motivo per cui si parla a sproposito di due piazze, quella pacifica e quella violenta, è una ma cosa è ridicola, ma non è così. Ma non c'è piazza pacifica. Quando si invoca la rivoluzione contro la borghesia, ma contro insomma, il capitalismo. Ma sono seduti a fare un picnic con delle tende, a mangiare un panino, a fare così con le manine in aria, ma di che parliamo? Su! Ma sì, che c'è? Allora, io non sto dicendo che parlare. Sono. Scusi, scusi Cruciani, mi dica. Se vogliamo parlare di quanto sono logicamente sconnessi questi ragazzi, basta vedere che hanno detto che loro non hanno la plastica e dormono in una tenda di poliestere, quindi di che parliamo? Sentiamo questa marchice, Martina, chi è? Martina, Martina Lerner, spiega, spettacolare questa cosa qua. Martina Lerner, come ha reagito Lerner? Era pure, cioè, nel senso che in teoria Lerner è anche vicino a queste persone. No, era curiosa sta cosa, vabbè, sentiamo. Grazie, mi spieghi cosa sono quelle mani che si agitano dietro di te? Non sono applausi. Sì, è mutuato dal linguaggio dei segni. Utilizziamo appunto questo per applaudire e per non interrompere chi sta parlando, per facilitare la comunicazione. Questo è il nostro segno di dissenso. Questo è un intervento tecnico, ma saranno spiegati in altri comunicati. Io non so se vi rendete, no, non so se vi rendete conto, cioè c'erano delle mani che si agitavano, poi tipo una, come se fossero delle manette, e poi esatto, tipo un time out. Mi piaceva tanto. Ah, è una cosa però da negli anni 70 si rideva quando i nostri papà, o non so se i tuoi, cioè, voglio dire, quando si facevano queste assemblee. Straguadagno se lo ricorderà, il mio amico Bughini, il nostro amico Bughini se lo ricorderà, i figli dei fiori che faceva, cioè la gerontocrazia, il potere dell'epoca. Fatto. No, ma scusate, il, pro... scusami, fatto, il potere dell'epoca rideva a questa ritualità degli anni 70. No, a parte che non è vero. No, Parenzo, Parenzo. Non parlare di cose che non sai. È lei? Parenzo è del... Io sono del 76, amore mio. E allora di che sta allora, parlando? Lei ciucciava ancora il letto, grazie a letto. Stia zitto. Ci fu il 77. Ma io qualcosa ho letto. Qualcosa ho letto. Non sa che cosa accadeva. Non io so, non l'ha vissuto. Uno dei miei amici più... Uno dei miei amici più... Un po' cinematografica. Ma perché che in dice? In quegli anni l'Italia ha rischiato, e non poco. Ma sono allora, però, uno dei miei più amici più cari era il grande Emilio Vesce. Vabbè, ma chi se ne frega, ma che vuol dire? Ho vissuto tutti gli anni 70, quindi le conosco benissimo anche, quella periodo. Ma anche a me, anche Emilio Vesce era un anche vabbè, mio amico, comunque, ma non è che si parlava di quello con lui. Comunque, signori, il punto è un altro, ed è questo: il signor Draghi, oh, Draghi. Adesso va all'attacco di Draghi. No, adesso va all'attacco di Draghi. Il signor Draghi. Attacca anche Krugman, allora. Attacca anche Siegfried, allora. Stai zitto un attimo, il signor Draghi ha detto che a questi ragazzi e anche a quelli che abbiamo visto agitare le manine e dire queste stronzate che hanno detto, bisogna dare delle risposte, hanno ragione, ma di cosa stiamo parlando? Cruciani, hanno detto cosa hanno proposto loro? Chiudere la BCE. Quindi il signor Draghi comprende, ma loro lo vogliono disoccupato. Questo non è male, grazie a Giorgio Strappolano. Poi dite che esagero, ma sentite quest'altro che era sempre ieri tra gli invitati dell'infedele lì a Piazza Santa Croce in Gerusalemme. No, i ma geni, cioè, i geni. Con le mani su, quello era bellissimo. Quello era bello, è solo che in televisione si vede meglio con le mani, la radio. Alzavano, per spiegarlo a chi ci ascolta, alzavano le mani in alto e le muovevano e le ondulavano come, no? Così come in segno non di saluto, non ciao ciao, ma... Ma che cos'era? Poi io mi sono anche scordato, cos'era? È un modo per... cioè, senza... loro dicono in questo... Però è divertente. Ma che divertente, è creativo, ma è demenziale. Invece di applaudire, perché l'applauso interrompe un ragionamento, loro quando c'è il consenso alzano le mani e in silenzio vanno con le mani, è bellissimo. Ma è da manicomio, tu è da manicomio, tu lo sai, no? Che è da manicomio. No, ma perché devi dire che è da manicomio? Forse anche criminale, forse anche criminale. Adesso però non si può ridere, una cosa pazzesca. Sono nella tenda, mangiano un panino, dicono che vanno riformate fare quello che vogliono, ma non bisogna dare troppa importanza, come abbiamo fatto tutti a questi qua, su, abbi pazienza. Ma quale popolo? Falla finita, ma che rivolta, ma parli per frasi fatte, Gabriele. No. Ti faccio sentire sto Gabriele, vediamo se ti convince. Sentiamo Gabriele. Sentiamo. La nostra parola d'ordine è il rispetto di noi che siamo tanti e che saremo di più, che abbiamo mille differenze di percorso, di cultura, rispetto dello spazio, rispetto quindi dell'ambiente, di questi prati, di questo selciato, e rispetto del contesto, delle persone che passano, della chiesa, dell'orto, che probabilmente ci passerà i prodotti con cui ci alimenteremo in questi giorni. Concretamente che cosa significa? Significa che in questo spazio vogliamo creare un'immagine che sia coerente col mondo che vogliamo costruire, a partire dalla sostenibilità ambientale. Amico mio! Ma è da manicomio! Non dico criminale, per carità. Però perché... posso dirti, è bellissima l'idea che stanno lì con le persone che passano, sono nelle tende, fanno l'amore, mangiano. No, ma è poi, ma soprattutto, ma scusami un attimo, ma di cosa stiamo parlando? Ma cioè, me faranno anche l'amore. No, ma io voglio dire, tende, sì, ma è sicuramente, ma di cosa stiamo parlando? Ma gli indignati di cosa? Perché cosa? Perché devi fare l'amore in una casa? Vado, ma che c'entra fare l'amore? Sei borghese, bellissimo a fare l'amore nelle tende lì per strada, ho capito, ma ti pare che Draghi o chiunque di noi ecco, sì, debba è. Dire questo è vero. Non lo so, dai, su ragazzi, c'è una però, cosa da fare. L'idea è che c'è l'orto, ad esempio. Abbiamo l'orto, rispettiamo l'ambiente e ci laviamo nella fontanella. Scusa, ma c'è bisogno, di venire a Roma a fare gli indignati per dire una stronzata del genere? Adesso abbi pazienza. No, per dire una puttanata così, c'è bisogno di occupare una strada di Roma? Cioè, dai, su. No, non hanno occupato il ma quello che è, Enrico da Roma, fanno l'amore della tenda, meraviglioso. Allora Enrico, dica. Mio pensiero, buonasera, complimenti per la trasmissione. No, volevo dire, sento spesso la vostra trasmissione per radio perché lavoro, faccio l'autista, quindi quasi tutti i giorni. E niente, credo che si stia un po' anche esagerando nei confronti di questi ragazzi che poi quali ragazzi, rimangono... scusi? Vabbè, non sono mostri, insomma, sono ragazzi, non hanno ammazzato nessuno. Ma non voglio difendere. No, ma non ho capito i soggetti però interessati al suo parliamo di questi violenti, questi più violenti. Lei dice non hanno ammazzato violenti, nessuno. Ma non, in fin ma dei non conti, assassini. In fin dei conti non hanno ammazzato nessuno. No, in fin dei conti è vero. Non hanno ammazzato nessuno. E allora, cioè, scusi, no, non ho capito. Non li giustifico, però con questo non giustifico neanche i nostri politici. O vogliamo giustificarli? No, guardi, senta, Enrico non mi, adesso stavo ridendo, non mi faccio tornare a essere incazzato come una bestia, perché... No, bisogna essere obiettivi, dottor Cucciano. Appunto, allora, bisogna essere obiettivi. Quando lei no. mi dice, non bisogna, beh, insomma, in fin dei conti cosa hanno fatto? Non hanno mica ammazzato hanno nessuno. Hanno rotto delle vetrine, hanno bruciato delle macchine, hanno tirato i sassi alla polizia che... Beh, c'entra niente, mio padre è un poliziotto, però io dico che la violenza sì. che hanno fatto questi ragazzi sì. non è neanche minimamente paragonabile alla violenza dei nostri governanti. Vabbè, lei Enrico è al delirio allo questo stato no. puro. Lei è al delirio allora allo stato puro. Perché? 10 e voglio concludere figlio. Ancora una volta questo con 10, 100, 1000 scilipoti. 10, 100, 1000 mafiosi, camorristi, camorria. No, ma Enrico, ma la faccia finita con queste frasi fatte, con questa demagogia da quattro soldi. Dai, con questo grillismo di però la verità, scusi, dottor Cruz, anche lei spesso nelle trasmissioni lo ma che c'entra? Scusi, il fatto che noi deridiamo la politica o almeno la parte cabarettistica della politica, che purtroppo è prevalente, non significa assolutamente nulla. Non significa mica che considero un politico meno degno di uno che va a sfasciare le vetrine per Roma. Abbia pazienza, Enrico. Di cosa sta parlando? E se lei lo pensa, si deve fare curare. E se lei lo pensa, si deve fare curare subito. No, però io posso dire una cosa. Però io quello che voglio dire è che, secondo me, come diceva grande Pannella ai tempi di Lona Staller, che lo scandalo di Lona Staller non era niente rispetto allo scandalo che facevano i politici, no? Allora io non mi meraviglio di quello che fa lo Stato, cioè lo Stato intendo i nostri parlamentari, politici. No, scusi, però guardi, quando succedono queste cose bisogna essere obiettivi, cioè questi ragazzi sicuramente hanno sbagliato perché forse hanno esagerato con le dietro, la polizia e tutto quanto. La rottura delle vetrine le devono pagare i Berlusconi, come paga le signorine lì. Ma cosa c'entra? Enrico, ma lei è veramente a delirio. Lei sta responsabili di queste situazioni. Chi è? Il governo. Vabbè, il governo è responsabile. No. Benissimo, i governi sono sempre responsabili. Sempre responsabili di tutto, di creare il disagio sociale. Enrico, la ringrazio. Giulio da Milano. Grazie Enrico, Giulio. Buonasera. Dica. Buonasera a tutti. Salve. Io aggiungerei una cosa alle parole di Enrico. I responsabili sono i Matusa e i governi, sì. citando egli la storia tese. Comunque, sorrido con lei. Cioè, responsabili di che, scusi? Riguardo all'episodio di Roma, sorrido a vedere i manifestanti, quelli pacifici. Sì. Sono semplicemente disorganizzati. E in che senso, scusi? In che senso? E condanno quelli violenti, però ci si sta distraendo. verso quello che è davvero il fulcro della questione. E qual è il fulcro secondo lei? Che è la violenza del sistema. Ah, la violenza del sistema. Ti prego. Sì, la violenza del sistema. Ti prego, no. Caro Giulio, siamo giunti alla conclusione di questa. La violenza del sistema, no. No, no, la violenza del sistema. No, io mi sento quando sento sta roba, la violenza del sistema, no, proprio, guarda. Ecco, bravo, fai tu, reagisci tu. No, questo la violenza del sistema va bene nei libri degli anni 70. No. A parte che non andava bene manco prima. Va bene nel senso che è contestualizzata in quella roba. La violenza del sistema, no. Diciamolo alla pannella. Non ce la voglio fare. Sono talmente incapaci che sono capaci di tutto. A domani, 18:30 la Zanzara. Ciao. Ciao, saluti, ciao, direttore. Ciao. Cruciale, vaffanculo, la non sei cruciale. Una vita per il cinema, una vita per l'amore. Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare. Cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è. È la patonza deve girare.